sì, no, come volete. Vai, vai. Sì, nel dritto di qua. Massimo fino al muretto lì. Ma la prendi senza azione. Sono schema. Ho fatto un rumore qua. Già qua al minimo. No, oh, dai! Vieni, tank! Cambiami un attimo! Mi prendo la colpa! Bisognerebbe avere un attimo di chi è che attacca? Io posso fare. Sembra sentimento? Sentimento. Fai sentimento allora. Taglia! Come on, fuck it.